Warning. The Sergeant General warns. Cigarette smoking is dangerous. Dangerous. Hazard to your head. Does that mean anything to you? Them legalize marijuana. Eccoci qua, siamo allo Scattaparty terza edizione. State ascoltando la musica in diretta qui dalla sede dell'Associazione Culturale Ultracosenza Scata. Siete in diretta comunque su Radio Transizione di Fase, ve lo ricordo. Fra poco magari sentiremo anche qualche intervento, non lo so, dipende da come prende. A ogni modo, continuate ad ascoltare Radio Transizione di Fase, continuate ad ascoltare la nostra diretta su Radio Transizione di Fase. Mica, glaucoma. dollar. I send Star Daily News and Greener. The woman every day has a hustler. I send Star Daily News and Greener. Hey, hey. She walk to concrete jungle, then Shurima. Allah in out, hold your paper. Star Daily News are Greener. The woman every day has a hustler. Even for to rainy weather, hey, the woman every day answer no so long. Who are for to sunny weather, hey? She say, hey boy, go tell your mother. If I know she, go tell your father. Star Daily News are clean. The woman every day answer no so long. I send Star Daily News and Greener. The woman every day answer no so long. Say boy stop ramping at the dirty water, hey. She say little boy, call your mother. Tell her about daily paper. Star Daily News are clean her. De boy, de boy, the woman every day answer no so long. I send Star Daily News and Greener. The woman every day answer no so long. And she enter you, yeah, she a facendo l'introduzione, che cazzo vuoi? Siamo qui su Radio Transizione di Fase e stiamo mandando in diretta la musica, come spero e mi auguro voi stiate ascoltando, in diretta da Francavilla Marittima, dallo Scataparty, dalla festa ormai triennale organizzata dall'Associazione Culturale ultracosenza scatacatascia. Siamo qui in compagnia della colonna anarchica cosentina che è giunta dopo mille peripezie qui in quel di Francavilla. Insomma, com'è stato questo viaggio da Cosenza a Francavilla? Ma devo dire che rispetto al passato, meglio, la strada è migliorata, il panorama è sempre più deludente, nel senso che aumentano le luci, aumentano le case, si perde un po' di natura. Però devo dire che arrivare qui a Francavilla in mezzo ai compagni e amici ultra è sempre una grandissima emozione, per il vero calore, l'amicizia, la fraternità che si respira. Devo dire anche l'ottimo vino, gli agrumi, un allegro buffet dove veramente c'è di tutto, è tutto più buono, dalla pasta alle insalate, ai sottoli vari, eccetera. Poi che devo dire, c'è la musica di Lupino e Italo, e fra poco si alternerà con quelli DJ che comunque renderanno questa pietra. Ci sono anche un po' più in là degli ultra che cantano i cori dello stadio, ma anche Bella Ciao, gente che fumacchia tranquillamente sui divani, persone anziane che ci guardano un po' perplessi ma sorridenti, ci sta un po' di tutto, insomma è veramente una bella serata. Insomma, poche notizie per quanto riguarda il viaggio vero e proprio da Cosenza a Francavilla, che devo dire è stato abbastanza pericoloso anche per la compagnia del nostro cane, che veramente ci ha lasciato una serie di ricordi molto significativi. Bene, e intanto continua qui la musica, continua qui l'apprezzamento. Dobbiamo dire che ancora c'è poca gente che si lancia nel ballo, insomma. Non sappiamo bene il motivo, ma sappiamo che tra poco non sarà più così. Bene, ora intanto abbiamo perso anche il cazzo del cavo, non sappiamo dove sia. Però siamo ancora, lo so che sono nelle casse, no, che parliamo. Però non c'è problema, siamo sempre qui a Francavilla e a breve continuerete ad ascoltare la musica dello Scataparty. Vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Radio Transizione di Fase, la web radio libera e indipendente. Continuate ad ascoltarci, continuate a seguire.